749. Rosolio tedesco. Non vi sgomenti la composizione strana di questo rosolio, che vi riuscirà facile alla prova, chiaro come l'acqua e di gusto gradevole. Spirito di vino del migliore, grammi 500, zucchero bianco a velo, grammi 500, latte mezzo litro, un limone di giardino, mezzo baccello di vaniglia, sminuzzate tutto intero il limone, togliendone i semi e unendovi la buccia che avrete grattata in precedenza, dividete in piccoli pezzetti la vaniglia, mescolate poi tutto il resto insieme, entro a un vaso di vetro e vedrete che subito il latte impazzisce. Agitate il vaso una volta al giorno e dopo 8 giorni passatelo per pannolino e filtratelo per carta.